potatv.it. Oltre lo specchio, dentro la mente. Scienza, affordance e vita quotidiana con il tuo cane. Benvenuti in una nuova prospettiva della cinofilia moderna. scuolaformazionecinofila.it. Di solito, quando si pensa alla paura, o magari all'ansia, o a un problema opprimente che ci cade addosso, l'istinto primordiale suggerisce quasi sempre una battaglia. Sì, assolutamente. Un approccio, direi, bellico. Esatto. Cioè, c'è una minaccia esterna, c'è la nostra mente, e noi ci prepariamo all'impatto. La sensazione è che ci siano solo due opzioni, no? O vinciamo noi affrontando il problema a muso duro. Oppure vince la paura. E non ci resta che la fuga. Praticamente fuggiamo a gambe levate, indossiamo questa, diciamo, armatura emotiva e pensiamo sia l'unico modo per sopravvivere. Ma nella nostra esplorazione di oggi andremo a ribaltare completamente questa visione. E lo faremo partendo da un presupposto affascinante, cioè che proprio quell'armatura che consideriamo così vitale sia in realtà il motivo per cui restiamo bloccati. Ma infatti è incredibile. E per chi ci ascolta, benvenuti a questa nuova esplorazione dettagliata. Oggi abbiamo una fonte davvero unica. Parliamo di un estratto intitolato L'ancora e l'orizzonte, che è tratto da un documento più ampio chiamato Attenzione duale, scritto da Michele Amico. Esatto, un educatore, formatore cinofilo e, come si definisce lui stesso, libero pensatore. E la missione di questa nostra analisi è capire un meccanismo biologico e mentale potentissimo. L'attenzione duale, appunto. Che non è solo una teoria astratta. È, guarda, una tecnica che ci permette di non essere letteralmente fagocitati dalle ansie quotidiane. E la cosa assurda è che scopriremo come questo stesso meccanismo sia il segreto per curare i traumi e le paure profonde nei cani. Sì, perché l'autore parte proprio dal recupero comportamentale dei cani traumatizzati, per poi allargarsi ai meccanismi del sistema nervoso di base, arrivando fino alla nostra quotidianità umana. Quindi vi assicuro che entro la fine di questo ascolto, il modo di guardare al proprio respiro, o magari al proprio cane, cambierà completamente. Scopriremo che il segreto per sconfiggere la paura non è combatterla, ma trasformarla in rumore di fondo. Che è un cambio di paradigma totale. Assolutamente. E per iniziare a spiegare questo concetto, il testo descrive una situazione umana universale, cioè quel fenomeno dello svuotamento. Ah, sì, quella sensazione di perdersi così tanto in un pensiero che letteralmente dimentichiamo di avere un corpo. Esatto. Penso che chiunque abbia vissuto un momento di forte stress sappia di cosa stiamo parlando. In quei momenti è come se il mondo esterno ci mangiasse. Ci divora. Sì, smarriamo il contatto con la sedia sotto di noi, non sentiamo più il nostro respiro. È quasi una dissociazione. A livello neurologico, questo viene spesso definito come una forma di visione a tunnel. Non parlo solo a livello visivo, ma cognitivo. Quando accade, smettiamo di esistere come centro consapevole. Cioè, la nostra esistenza si restringe. Esattamente. Immaginiamo di ricevere una mail di lavoro problematica. In una frazione di secondo non percepiamo più il contatto della schiena contro la sedia, non sentiamo la temperatura della stanza, il respiro si blocca o diventa superficiale. Diventiamo solo quel problema. Sì, l'intera esistenza assume le esatte dimensioni di quel problema sul monitor. La nostra consapevolezza viene rapita dall'orizzonte, recidendo l'ancoraggio con il nostro io fisico. Ok, analizziamo la cosa. Perché... per chi ci ascolta e magari si ritrova in questa descrizione, il primo istinto non è cercare di sentire la sedia. No, certo che no. Se un pensiero mi logora, il mio istinto è, cercare una via di fuga. Mi distraggo, prendo il telefono, scorro i social, accendo la TV. Insomma, cerco di silenziare quel pensiero. Ma il testo dice chiaramente che non è questa la soluzione, giusto? Giusto. Michele Amico è categorico su questo. La distrazione offre un sollievo a brevissimo termine, ma biologicamente è una trappola. Una trappola? In che senso? Nel senso che quando scorriamo il telefono per sfuggire all'ansia, non stiamo disinnescando la reazione di allarme, la stiamo solo seppellendo. Ah, quindi il corpo è ancora in allarme. I muscoli restano tesi. La mente conscia guarda un video, ma il sistema nervoso autonomo è bloccato nella modalità combatti o fuggi. Aspetta, quindi illudiamo noi stessi? Praticamente sì. Non è il multitasking o la distrazione la chiave, ma l'attenzione duale, che non significa distogliere lo sguardo dal problema, ma espandere la mente per accogliere più elementi. E per spiegare questa cosa, il testo usa una metafora che mi ha davvero colpito, l'analogia di un lago profondo. Bellissima immagine, sì. Cioè, immaginiamo la superficie di questo lago. È esposta ai venti, ci sono le onde, le tempeste. Quella superficie caotica rappresenta il nostro problema, l'ansia che ci assilla in quel momento. E se restiamo bloccati lì, vediamo solo caos. Esatto, vediamo solo la tempesta e ci sentiamo annegare. Ma il lago ha una profondità. Scendendo chilometri sotto quelle onde, l'acqua resta calma, immobile, mantiene la sua densità. E questo succede anche mentre in superficie c'è il finimondo. E l'attenzione duale è proprio la capacità pratica di riattivare la percezione di quella profondità. Cioè, restare ancorati al dentro. Esatto, tornare a percepire fisicamente il battito cardiaco, i polmoni che si espandono, la solidità della terra sotto i piedi. E questo è il punto cruciale, farlo mentre si continua a osservare il movimento frenetico in superficie. Che sembra una cosa difficilissima, specialmente per noi umani. Noi, con la nostra corteccia prefrontale, passiamo il tempo a filosofeggiare sulle nostre ansie. A razionalizzarle continuamente. Sì, ma prima hai definito questa cosa una tecnologia biologica. Quindi, essendo biologia di base, le regole si applicano anche a chi non ha la nostra stessa mente complessa, tipo agli animali. Assolutamente sì. E la cosa affascinante qui è proprio il parallelismo. Queste dinamiche legate alla sopravvivenza e alla paura sono condivise tra tutti i mammiferi. Il testo analizza il caso di un cane timoroso o reattivo per spiegare tutto questo. Ah, fantastico. Prendo la palla al balzo su questo. Parliamo di cani. Quando un cane che ha il terrore delle persone strane vede uno sconosciuto a 100 metri di distanza, subisce lo stesso svuotamento di cui parlavamo prima? Identico. Il suo universo si restringe completamente a quello stimolo minaccioso. Guarda, posso immaginare la scena benissimo. Si vede spesso nei parchi. Il cane fissa lo sconosciuto e letteralmente stacca la spina da tutto il resto. Sì, perde ogni altro contatto. Non annusa più l'erba, non sente il proprietario. Il corpo si irrigidisce, sposta il baricentro in avanti. Il respiro si blocca. Praticamente ha perso il suo fondo del lago. Perfetto! In quel momento lui non sta solo provando paura. Lui è diventato la sua paura. È diventato la sua paura. Wow! L'estraneo è diventato l'intero orizzonte e il cane è stato mangiato dalla minaccia. E nell'educazione tradizionale, sai qual è l'errore umano più comune? Sgridarlo? Tirare il guinzaglio? Sì, cercare di forzarlo a ignorare la minaccia, mettendosi davanti, strattonandolo. Ma, biologicamente, chiedere a un sistema nervoso terrorizzato di ignorare la fonte del terrore è impossibile. Certo, se c'è un predatore, non guardi dall'altra parte. E il cervello deve monitorarlo per pura sopravvivenza. Ed è qui che l'attenzione duale diventa uno strumento pratico per la desensibilizzazione. Ed è qui che diventa davvero interessante. Perché per chi ha un cane reattivo, trovarsi in quella situazione e fare qualcosa di diverso dal tirare il guinzaglio sembra fantascienza. È un cambio di prospettiva radicale. Infatti, il testo non chiede mai di ignorare la persona, ma di percepirla restando connessi a qualcos'altro. Esatto, la copresenza. Immaginiamo la scena, sempre descritta dalla fonte. Il cane osserva la persona in lontananza. Quello è lo sfondo, un disturbo ineliminabile. Ma contemporaneamente lo invitiamo a masticare un boccone o a cercare del cibo nell'erba. Gli offriamo un'ancora. È come se noi fossimo i registi di un film. Non stiamo cancellando il mostro dalla scena con gli effetti speciali. Non stiamo girando la telecamera altrove. Il mostro è lì, ma noi modifichiamo la profondità di campo. Bella questa analogia della telecamera. Lo mettiamo fuori fuoco sullo sfondo. E intanto usiamo l'obiettivo per mettere a fuoco un dettaglio in primissimo piano. Un dettaglio che dà sicurezza. E se applichiamo questa tua analogia alla neurobiologia, capiamo perché funziona. In quel momento l'amigdala, la nostra centralina d'allarme, sta urlando. Vuole che la telecamera faccia uno zoom esclusivo sul mostro. Vuole tutti i pixel sul pericolo. Esatto. Ma quando scegliamo attivamente di mettere a fuoco il primo piano, cioè la masticazione o la ricerca del cibo, stiamo facendo un override sul cervello. Stiamo dicendo al sistema nervoso: «Ehi, abbiamo ancora il controllo». Ma scendiamo nel dettaglio su questa cosa del cibo. Immagino non sia una scelta casuale o legata solo al fatto che, il cibo è buono. No. C'è una ragione evolutiva profondissima. Qual è la meccanica dietro? La masticazione? Pensaci. In natura, la gerarchia dei bisogni è spietata. Nessun animale si ferma a mangiare se sta fuggendo da un leone. Direi di no. Nutrirsi e digerire sono lussi che il corpo si concede solo quando l'ambiente è sicuro. Quindi, quando il cane inizia a usare i muscoli della mascella e a deglutire pur vedendo l'estraneo in lontananza, innesca una reazione meccanica e nervosa. Aspetta, quindi non è solo una distrazione psicologica, è proprio fisica. Totalmente fisica. Stimola direttamente il nervo vago, che collega il cervello a cuore, polmoni, apparato digerente. Invia un messaggio dal corpo al cervello. Stiamo masticando. Se stiamo masticando, la minaccia laggiù non è mortale. Siamo al sicuro. Pazzesco. Quindi si usa il corpo per rieducare il cervello. Si aggira la mente che grida a pericolo usando un processo fisiologico. Precisamente. Questo processo attiva il sistema parasimpatico. Che sarebbe il sistema della calma. Esatto, l'antagonista del sistema simpatico, quello dell'allarme. Quindi abbiamo due fasi. Il primo piano, la masticazione accende l'interruttore della calma. Ok. E poi c'è lo sfondo. La persona spaventosa è ancora lì, ma subisce un declassamento neurologico. Perde il microfono, per così dire. Diventa puro rumore bianco. Come un frigorifero acceso in una stanza. Lo senti, ma non ti impedisce di leggere un libro. Che ci porta al nucleo filosofico del lavoro di Michele Amico, quello che lui chiama biopensiero. Un concetto chiave. Mi sembra che il punto centrale sia smettere di combattere. Se facciamo a braccio di ferro con l'ansia o con la paura, non facciamo altro che darle forza. Assolutamente. Cioè, se combatto così duramente contro una cosa, il mio cervello penserà: cavolo, se stiamo lottando così tanto, questo mostro deve essere davvero pericoloso. Opporre resistenza alla legittima. Questo solleva una questione importante, perché la resistenza alimenta il circuito d'allarme. Il vero apprendimento non è eliminare la paura, ma creare copresenza. Copresenza, cioè far coesistere le due cose. Sì, il cane impara che la paura per lo sconosciuto, il senso di sicurezza dato dal cibo, possono coesistere nello stesso identico millisecondo. Non si annullano. Stiamo creando un contenitore. Esatto, un contenitore emotivo abbastanza grande da ospitare il timore senza esserne travolti. Non stiamo svuotando il bicchiere d'acqua sporca, stiamo allargando il contenitore. E a lungo termine, quali sono i risultati concreti che cita la fonte? Cioè, se facciamo questa cosa ogni giorno, il cane impara solo a sopportare passivamente, diventa solo più bravo a distrarsi. No, e qui sta la rivoluzione. Non è rassegnazione. Attraverso l'esercizio, il disturbo sullo sfondo perde oggettivamente potere. Il sistema nervoso smette di andare in panico perché ha trovato un'ancora. Quindi non è che impara a sopportare gli altri. Impara a non smarrire mai se stesso. Anche di fronte al terrore mantiene il suo centro consapevole. Mantiene il contatto con il fondo del lago anche con la tempesta in superficie. Esattamente. Quindi, cosa significa tutto questo? Se dovessimo riassumere l'essenza di questa esplorazione, credo che le parole dell'autore siano perfette. Resta fuori, ma rimani dentro. Una sintesi bellissima. È il manifesto dell'attenzione duale. Significa mantenere viva la capacità di guardare l'orizzonte, percepire il mondo con le sue minacce, ma senza mai tagliare il legame sensoriale che ci tiene ancorati a noi stessi. E in questo spazio doppio, la vita smette di essere una forza opprimente che ci scorre addosso. Inizia finalmente a scorrere attraverso. Diventiamo contenitori attivi. La paura viene integrata, non ci frammenta più. E guardando a noi umani, se un cane dominato dagli istinti di sopravvivenza può disinnescare il panico tornando al contatto con il presente, noi come siamo messi nella nostra quotidianità? È una provocazione forte, perché noi abbiamo costruito una società che distrugge l'attenzione duale. Gli smartphone, gli schermi, sono progettati per occupare il 100% del nostro primo piano. Cancellando la percezione del corpo. Esatto. Cediamo volontariamente la percezione della sedia, del respiro, per immergerci in un orizzonte artificiale pieno di allarmi e notifiche. Forse la vera sfida non è sconfiggere i mostri sullo sfondo, ma riprendere in mano la telecamera. Mettere a fuoco i piedi sul terreno. Trasformare quelle paure in rumore bianco prima che l'orizzonte ci inghiotta. Lasciamoci ascoltarti con questa profonda riflessione pratica da applicare da subito. Un saluto e alla prossima esplorazione dettagliata. A presto!